9 in punto, la versione di Oscar. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 5 di giugno, San Bonifacio, quindi auguri a chi si chiama Bonifacio, sia esso o meno un epigono del mitico Bonifacio VIII. Ricordate quello dello schiaffo di Anagni, i tempi in cui arrivava a compimento la lotta per le investiture iniziata da Gregorio VII due secoli prima, e invece degli imperatori che si inginocchiavano mandavano i messi e prendevano a schiaffi i rappresentanti del potere religioso. In definitiva, perché comincio con questo aneddoto storico? Perché è dalla evoluzione nei secoli di chi esercitava il primato negli ordinamenti pubblici europei che noi deriviamo questa materia così delicata, nella quale si interseca la pelle della vita di ciascuno di noi, il confine che dovrebbe essere considerato intangibile da parte di chiunque, del rispetto dei nostri diritti naturali, e invece tutto questo si relaziona, si interfaccia con l'ordinamento pubblico, con lo Stato, ed è questo rapporto mediato da un apparato, l'apparato tributario, che è quello che esercita in termini filosofici, prima ancora che matematici, la più concreta estrinsecazione di come lo Stato nel tempo si sia fatto l'idea che noi dobbiamo essere, si sarebbe detti un tempo, parte fondativa della sua stessa esistenza, ma nella nostra vita quotidiana, nei decenni che abbiamo alle spalle, nell'evoluzione, nella storia del nostro paese rispetto agli altri avanzati, più che altrove, altro che parte fondativa, il cittadino è diventato semplicemente quello che era ai tempi, secoli prima dello Stato moderno, secoli prima delle rivoluzioni liberali che hanno tagliato la testa ai re contro le tasse, secoli prima dell'illuminismo, secoli prima dell'irruzione sul palcoscenico della storia delle masse con la democrazia di massa nel Novecento e la lotta contro i fascismi, secoli prima di questo noi siamo tornati alla condizione di allora. Siamo tornati, parolina magica del libro Manifesto, di cui mi sentirete parlare tantissimo, sperando che molti di voi lo comprino, lo leggano e ci dicano cosa ne pensano, siamo tornati sudditi, sudditi, sudditi. Così e non altrimenti è definibile la condizione in cui l'ordinamento pubblico del nostro paese ci mette di fronte allo Stato, in primis proprio per il rapporto tributario. Sudditi, pezzi su cui si estrinseca la sovranità che appartiene solo allo Stato, che è fatta solo da lui, che è interpretata solo da lui, che non ci consente, se non a suo vantaggio, di andare in contenzioso di un giudice che non è affatto terzo, un giudice che deve raccogliere i soldi su cui si pagano gli stessi agenti tributari che vengono a farci gli accertamenti. Questa è l'amara realtà. Allora, oggi parleremo di un capitolo del libro di cui abbiamo iniziato a parlarvi ieri, Sudditi appunto, che trovate naturalmente in edicola, scusatemi, in libreria, non in tutte le librerie, molti ieri hanno protestato ovviamente, e l'unica cosa, senza che i librai mi vengano addosso come è già avvenuto ieri, posso dirvi che il libro Sudditi, un programma per i prossimi 50 anni a cura di Nicola Rossi, lo avete sentito ieri, potete procurarvelo però in formato ebook su amazon.it per chi usa il Kindle, su ebooks Italia se usate l'ePub, su ebookizzati e qui i formati sono ePub, Mobi e Kindle, quindi potete trovarlo su amazon.it. e la mia sensazione, vedendo ieri quanti su Amazon l'hanno comprata, è che forse un qualche primo appello per fare di questo libro, che parla non solo di tasse, soprattutto le tasse, ma non solo le tasse, parla anche poi di come lo Stato a proprio vantaggio pieghi le norme in materia urbanistica, nel diritto penale, nel diritto civile, nell'energia, nelle infrastrutture, nel rendere impossibile la vita alle imprese. Ecco, in tutto questo, ci trovate capitoli per tutto questo. Oggi ci occupiamo di un capitolo che è forse un po' la summa della sovranità cessata da parte del cittadino, dell'illusione eterna che vivono molti di voi, che sono convinti che i toni che io uso, tranchant e taglienti, apposta, non perché sia un pazzo esagitato, ma sono volti esplicitamente a fare reagire coloro che la pensano diversamente, pensano che questi toni siano esacerbati, siano esagerati, siano ultronei, magari si debbano a chissà quale non dichiarato programma di vendetta nostalgica a favore del centrodestra, di cui non me ne può importare un piffero secco, a dire la verità. Non è così. Il tema è che la stragrande maggioranza degli italiani, pur vivendo difficoltà terribili, morsi dalla crisi, nel reddito, nel patrimonio, pur essendosi resi consapevoli che a soffrire oggi è il lavoro dipendente che perde il lavoro, siamo ai record di disoccupazione, insieme all'impresa che perde continuità di fronte alle pretese crescenti dello Stato, che fa l'80% del suo programma di rientro da più tasse da chi già le pagava e aumenta sia le imposte dirette, sia le imposte indirette, sia le imposte patrimoniali. Nessun altro paese europeo ha fatto questo. Non era vero che non c'era alternative. Non è vero che bisogna dire bravi perché non c'erano alternative. Le alternative erano quelle di agire in termini immediati, a differenza di quello che i buffoni del governo precedente negavano. Questo è indubbio e questo governo lo ha fatto. Ma il commisurare, proprio perché si capiscono le cose e si sanno leggere i numeri, le misure all'adeguatezza purtroppo sia dei tempi che devono essere ristretti, sia delle richieste pressanti del mondo che guardava l'Italia come un detonatore, il risultato è che non lo siamo più, ma è l'intera Europa che sta esplodendo, questo dovevamo pretenderlo e non è una pretesa impropria da parte di questo governo. Allora, il capitolo nel quale il rapporto rovesciato tra ex soggetto coautore della sovranità, diventatone oggetto come nei secoli bui in cui c'era la lotta per investiture tra papi e imperatori, il capitolo nel quale il fisco è più calpestato è quello dello statuto del contribuente. E quindi è esattamente di questo che parliamo oggi, parlandone con l'autore di uno dei saggi a questo dedicato nel libro che torno a dirvi, compratelo e leggetelo, si chiama Sudditi e lo trovate oltre che nelle librerie su Amazon.it, Books Italia e Bookizzati, e l'autore del capitolo dedicato allo statuto del contribuente, che è Natale D'Amico, che è con noi e che ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Natale D'Amico, per chi non lo sapesse, è consigliere della Corte dei Conti, è un ex senatore, un ex sottosegretario al Ministero del Tesoro, al Ministero delle Finanze, insomma ha circumnavigato e attraversato all'interno e dall'esterno il mondo pubblico che si occupa delle finanze, ed è un liberale intemerato, e questo è un doppio merito, perché dopo essere passati per quel mondo ed essere restati della propria idea significa averla veramente adamantina, e ha scritto appunto un capitolo sullo statuto del contribuente, lo ha scritto in forma di apologia. A dire la verità, perché Natale D'Amico questo capitolo l'ha scritto in forma di apologo, come se fosse una favoletta? Perché appunto a leggere lo statuto sembra il mondo dei sogni. Lo statuto prevede, la legge dello Stato italiano prevede che le norme fiscali non possano essere retroattive, che è una cosa appunto che fa ridere in realtà. Che il modello della dichiarazione dei redditi deve essere comprensibile anche a chi non capisce di fisco, che non si possa agire sulle imposte attraverso il decreto legge, una serie di regole che sono regole di civiltà. Un'altra cosa di cui tanto si discute in questi giorni, che sembrava folle, è che le imposte possano essere pagate per compensazione, cioè se un credito verso lo Stato posso dire vabbè, non, anziché darti i soldi delle tasse scontale su quanto mi dovresti dare perché sei in debito verso di me. Queste cose aspetti mi tocca dire, rispetto a chi dice che noi siamo critici rispetto al governo attuale, che anche oggi registriamo che nell'ipotesi di uno dei decreti sviluppo che stiamo attendendo per questa settimana c'era l'ipotesi fortissimamente richiesta di alzare la possibilità di elevare la compensazione dei crediti da 500.000 a 700.000 euro. La Ragioneria Generale dello Stato ha detto, tanto per cambiare, no, prego, l'ho interrotto solo perché eravamo sull'argomento, prosegua. Dicevo, una serie di regole di civiltà, appunto, di regole di uno Stato moderno che così si dovrebbe comportare nel rapporto con i propri cittadini, che appunto a leggerle ci fanno un po' ridere. Allora io ho preferito raccontare la storia come se ci arrivasse questa storia dall'anno di celebrazione dei 200 anni dell'Unità d'Italia, come se ci arrivasse dal futuro. La verità è che quella legge c'è già, solo che quella legge, come dire, è violata, derogata, come dire, travolta da una marea di eccezioni, da una marea di norme che la travolgono ogni volta, e il Parlamento non è stato in grado di farla rispettare. Il Parlamento, che pure la volle, perché io fui, rappresentai il governo nel momento in cui il Parlamento nel 2000 la approvò, e ricordo che nell'amministrazione finanziaria c'era molta resistenza a questa norma. Il Parlamento la volle e la impose, soprattutto per merito di un amico che mi fa piacere salutare, che si chiama Gianni Marongiu, allora parlamentare, ma poi il Parlamento non ha saputo difenderla dalla cascata di norme che l'hanno travolta, per cui a leggere oggi questi principi ci sembrano appunto i principi di un mondo dei sogni. Io ricordo a tutti che Gianni Marongiu è un professore a Genova, autore di libri fondamentali sulla storia e l'evoluzione del sistema fitributario italiano, e quindi gli va reso merito, perché sono veramente dei bellissimi libri. Pensate che nello statuto del contribuente di cui vi sta parlando Antonio D'Amico c'è scritto per esempio che l'amministrazione pubblica non può disconoscere un credito preteso da un contribuente, e questa affermazione di principio nella traduzione concreta ha significato per l'amministrazione pubblica semplicemente non avere la contabilità dei propri debiti commerciali, e così si riparte ogni volta da capo e dice: intanto dimostrami tu che io ti devo dei soldi, poi se vuoi davvero essere ammesso alla certificazione rinuncia per scritto all'idea che mi puoi fare un titolo esecutivo, cioè un'azione in tribunale per farlo. Quindi, come dire, insomma, è pieno di, è fatto in forma di apologo, ma è un apologo amaro questo di Natale D'Amico, perché ovviamente è come le favole di Esopo e di Fedro, ci devono fare riflettere con termini leggeri, più leggeri di quelli che uso io, che invece uso invece un po' la frusta per scuotervi, ma come sempre hanno un fondamento che ha a che vedere con l'etica, con la morale, perché il fisco non è questione di arida matematica, è questione di filosofia naturale ed è questione di etica. Credere che l'etica sia nella soluzione di un dovere fiscale imposto in maniera abnormemente difforme dal rispetto dei nostri / vostri diritti, e abnormemente difforme in termini quantitativi dall'esercitare altro se non un disincentivo alla crescita individuale dell'impresa, della famiglia e del paese, ecco, questo non è etica, è fondamentalmente la disetica di cui lo Stato ci ha tutti impregnati, solo che è difficile dirlo perché appari come un amico degli evasori, e invece non c'entra niente l'evasione fiscale, come abbiamo ricordato ieri con quella aurea affermazione di Francesco Ferrara, ripresa 60 anni dopo ancora da Luigi Einaudi, e che era valida quando la pressione fiscale con Francesco Ferrara era il 10% del PIL, valida con Luigi Einaudi quando era al 28-29% del PIL, figuratevi quanto vale adesso che il totale delle entrate dello Stato è al 49% del PIL legale, cioè al 58%, voglio dire, del PIL legale rispetto al PIL formale. Allora, quella affermazione che abbiamo ripetuto ieri dice semplicemente che il primo fondamento, primo principio di riferimento di qualunque sistema tributario deve essere l'economia della spesa pubblica, e se questo non è il primo fondamento, allora non si è più in un rapporto tra Stato e cittadini liberi, ma si è invece all'interno di un rapporto autoritario in cui lo Stato dice: me ne frego di quello che, se tu vieni a dirmi che è inefficiente la mia spesa, se è abnorme la mia pretesa, se ti calpesto nella tutela dei tuoi diritti perché dico che ho ragione io, me ne frego. Ecco, quando lo Stato dice me ne frego e l'etica consiste nello sbattere i tacchi di fronte al me ne frego, siamo nell'autoritarismo, e allora c'è molto di cui riflettere. Iniziamo a sentire qualche caso concreto, perché oltre agli apologhi e oltre ovviamente agli esperti che amaramente vi ricordano come stanno le cose, come Natale D'Amico, poi ci sono i casi concreti che parlano e sono decine di migliaia sui nostri tavoli, e a cui dare ascolto sarebbe secondo me il primo dovere di una parte fondamentale dell'informazione, che invece volge dall'altra parte, sbatte i tacchi e intinge la penna nel facile inchiostro del dire morte agli evasori, viva lo Stato, i servi dell'autoritarismo sono sempre più dei discepoli della libertà, che osano contraddire in nome però della legge morale, capite, del diritto naturale, quella è la legge prima quando si tratta delle libertà individuali. Ecco, chi si batte per questo non è per l'evasione, è per uno Stato che spinga naturalmente alla compliance, cioè ad aderire spontaneamente, non per paura, a un ordinamento, perché deve essere più giusto e più commisurato alla capacità di farci crescere meglio. Allora, sentiamo un caso, è quello dell'architetto Claudio Pepe, che ci ha scritto qualche giorno fa, con una storia che riguarda un architetto e un imprenditore immobiliare. È una storia relativa a come appunto le amministrazioni pubbliche valutano e disvalutano, per così dire, i prezzi delle aree immobiliari. Allora, buongiorno e grazie all'architetto Pepe. Tentiamo di raccontare in termini schematici ma comprensibili la sua storia. Allora, la storia si è svolta in questo modo. Noi abbiamo semplicemente acquistato un terreno a cui abbiamo dato con l'acquirente un valore immobiliare che di fatto è il valore immobiliare di tutte le aree che stavano lì attorno, e questo per poi fare un intervento inserito all'interno di un piano di rotizzazione. Quindi abbiamo comprato una parte del terreno con il quale poi insieme con il rimanente si riusciva a realizzare un progetto di costruzione. Ebbene, dopo un... A quel punto arriva, dopo un po', una visione. Dopo un po' mi arriva un accertamento, il quale mi dice: no, guarda, secondo i nostri conteggi, o meglio le nostre valutazioni, il valore del terreno che tu hai dichiarato è un terzo di quello che invece pensiamo noi. E su questo, va bene, direi che è una cosa abbastanza, se vuole, normale, succede un po' a tutti, nel senso che l'amministrazione dell'ufficio delle entrate fa degli accertamenti, e su quegli accertamenti poi ovviamente il contribuente, come abbiamo fatto noi, fa il suo regolare ricorso in primo grado, e poi si vedrà. Il punto però essenziale è questo, è per il quale io le ho scritto. L'amministrazione del Comune di Venezia, su cui è inserito questo piano di rotizzazione, ci ha imposto di fatto l'acquisto di un altro appezzamento di terreno per il quale, se non avviene questo acquisto, non c'è la possibilità di realizzare il progetto per il quale abbiamo preso il primo lotto, la prima parte. Ovviamente siamo andati a concordare il prezzo con l'acquirente e abbiamo stabilito lo stesso identico prezzo che avevamo comprato la prima parte. Ora, io mi sono rivolto ovviamente all'ufficio delle entrate chiedendo come mi dovevo comportare, perché sicuramente una volta dichiarato quel prezzo, che era lo stesso che avevamo fatto prima, avrei avuto certamente un secondo accertamento. Ora, il problema è questo: come posso fare per essere a posto nei confronti dello Stato? L'unico sistema reale sarebbe questo, cioè io dovrei, secondo l'ufficio delle entrate, dichiarare il suo prezzo, quindi un prezzo tre volte superiore a quello con cui ho concordato con il venditore, pagare ovviamente le imposte relative a questo prezzo fasullo, però poi dovrei farmi restituire ovviamente la differenza tra quanto ho concordato con il venditore e quanto invece pretende che sia dichiarato dall'ufficio delle entrate. E come me la faccio restituire io questa somma? Ecco, per questa ragione io le ho scritto, già anche no. No, perdonate, perché allora, io spero che a casa sia chiaro. Dunque, la faccenda è di una compravendita che avviene per farci sopra un progetto immobiliare del tutto in regola con i piani urbanistici previsti nell'area in cui opera l'architetto Claudio Pepe. Sì, per farla breve, poi l'architetto Claudio Pepe ha saltato anche un passaggio, cioè all'atto in cui avviene la compravendita a quel prezzo, che l'Agenzia delle Entrate invece calcola essere solo un terzo del minimo a cui è avvenuta davvero la compravendita, l'architetto Pepe, quando è arrivata l'Agenzia delle Entrate, gli ha pure detto: ma guardate che questo è il valore di riferimento che vale anche per l'ICI, per lo stesso comune di Venezia. E l'Agenzia delle Entrate dice: che ci frega, il comune di Venezia sull'ICI può dire quello che vuole, ma noi dei valori dell'ICI e della stima quindi fatta dalle amministrazioni comunali non ce ne importa niente, noi facciamo un'altra stima ai fini dell'ufficio di registro, noi le diciamo che il prezzo deve essere, lei ha pagato un terzo, su, non ci stia a ciurlare nel manico, lei ha pagato, in realtà il terreno vale molto di più, ci deve pagare le tasse sul molto di più. A quel punto, per fare il progetto immobiliare è necessaria una nuova acquisizione. Problema: come si fa a farsi dire che bisogna pagare tre volte tanto solo perché lo Stato ti dice a tavolino che devi pagare tre volte tanto, anche se lo stesso valore del comune ai finici ti dice che hai pagato il giusto, quando poi stai ricomprando comprando a un prezzo che, siccome era giusto, continua a essere di un terzo inferiore a quello che dice lo Stato, cosa fai? Fai una finta compravendita e ti fai restituire i soldi in nero? Oppure ti sveni pagando davvero di più e fai un regalo al venditore perché lo ha stabilito lo Stato? Ecco, questo è il dilemma. Ma alla fine, architetto Pepe, come ha deciso di procedere? Beh, l'unico sistema è quello di portarsi, adesso io faccio un po' di ironia ovviamente, mi dovrei portare un funzionario dell'ufficio delle entrate a fare la compravendita con me, per dimostrare materialmente, non lo so, in maniera fisica, va bene, che l'acquisto che facciamo è un acquisto regolare, che dietro quell'acquisto non c'è un pagamento in nero, che il prezzo concordato con il venditore è esattamente quello che dichiariamo nel rogito. Questa sarebbe comunque ovviamente una fantasia che potrebbe anche descrivere Natale D'Amico, che lei ha prima intervistato in maniera così ironica, no? come un fatto quasi burlesco. In realtà, dottor Giannino, farò l'acquisto, mi subirò, come subiscono i sudditi di questo paese, un secondo accertamento, farò ovviamente una seconda opposizione e poi subirò le spese. Io penso di vincerlo, senz'altro. Ecco, comunque dovrò ovviamente subire tutte le conseguenze di un ricorso con spese di avvocati. E così sia per tutti noi, e così sia per tutti noi, purtroppo, fino a che in qualche modo dal basso non creeremo un movimento legalitario di massa teso alla restituzione a noi dei diritti che ci spettano, a noi in quanto soggetti fondativi di questa sovranità democratica, non oggetti sui quali si scatena la fantasia dei vertici della pubblica amministrazione, perché sono loro prime dalla politica a scrivere queste norme, ad autotutelare l'apparato amministrativo, a mettere un velo impenetrabile tra il privilegio, che niente ha a che vedere con il diritto, il privilegio che si autoattribuisce e si autotutela nel rapporto tributario, lo Stato e la pubblica amministrazione nei confronti nostri, poveri soggetti della sua libera volontà di determinare il nostro a tavolino, il nostro reddito, le nostre spese, la nostra imponibile, l'imposta dovuta e di venircela a prendere, mentre naturalmente quando si tratta di far fronte ai propri debiti commerciali e ai propri debiti fiscali nei nostri confronti, la regola è non ho neanche la contabilità. Ecco, uno Stato così è da riformare oppure da cambiare, e se ancora poi ti dice che il disetico sei tu, ci sono le armi estreme a cui il diritto naturale deve essere in grado di arrivare gradualmente ma con determinazione. Bisogna ridurli al ragionamento, e se il ragionamento non è più arte in cui siano esperti, bisogna mandarli a casa, tutto là, con tutta la forza del caso. Eccoci tornati qui, come prevedevo, il tono abrasivo che deliberatamente uso provoca la reazione subito arrabbiata di fedeli servi dello Stato o di pidocchi che stanno nella criniera dello Stato, perché è ovvio che sono in tanti, quindi alcuni rabbiosamente, ce n'è uno poi in particolare che mi diverte perché dall'inizio che crede di farmi un problema insultandomi, ma invece finché c'è vuol dire che c'è lunga vita per la nostra missione, e tutti mi invitano naturalmente a dire questa parte, per così dire, che si sente arrabbiata perché sente puzza di qualcosa quando si parla di diritti individuali incomprimibili, perché è alieno dalla tradizione collettivista questa cosa, quella di chi vi dice che lo Stato siamo noi. No, leggete Sudditi, trovate un capitolo in cui vi spiega come mai per il trionfo dell'impostazione giuspubblicistica tedesca lo Stato sono loro, è diventato lo Stato persona, cioè della minoranza pro tempore dei vertici amministrativi e politici che fanno lo Stato. Quello è lo Stato in Italia. Chi vi dice che lo Stato siamo noi, da una parte in buona fede, e dall'altra si illude perché non ha visto cosa è diventato lo Stato vero nel nostro paese. Lo Stato è una minoranza pro tempore amministrativa e politica che autotutela il proprio interesse, che è quello di non perdere il controllo di questa macchina. Niente affatto la volontà generale russoiana, l'interesse collettivo. Per chi ci vuole credere, visto che mi si invita poi a parlare di come funzionano gli altri paesi, di cosa vogliamo parlare? Del fatto che In Francia la compensazione fiscale avviene entro 3 mesi, e se non avviene entro 3 mesi poi hai diritto di andare all'agenzia territoriale delle entrate e ti danno la lettera di scusa dopo che ti certificano immediatamente e ti fanno l'assegno. Di cosa vogliamo parlare? Del fatto che in Svezia la pressione fiscale diventa più bassa di quella ufficiale del nostro paese, cioè del 45% quest'anno, dimenticando però che il nostro ufficiale ingloba un 17% di PIL, in cui quel 45% diventa già 54%, quindi la nostra diventa di 9 punti superiore a quella svedese. Di che cosa vogliamo parlare? Del fatto che vi abbindolano gli statalisti collettivisti, i furoristi contro gli evasori e i furbi italiani che non pagano le tasse, gli agenti pidocchi nella criniera del cavallo pubblico, quelli che vi dividono tra percettori di reddito dipendente e vi dicono che la colpa è solo nostra, naturalmente, dei lavoratori autonomi, di chi ha le società, di questa specie di teppa che saremmo noi, che naturalmente siamo anomici, noi le tasse non le paghiamo, vi freghiamo a voi ovviamente, no? Lavoratori dipendenti. Ecco, chi insorge sempre con questi argomenti e vi dice: ma guarda in America, che bel paese l'America, in cui ci sono i miliardari come Warren Buffett che dicono: basta, io non posso pagare meno tasse della mia segretaria. Però questi qua dimenticano sempre di dirvi che Warren Buffett, che paga tra il 17 e il 18% di aliquota personale, vuole pagare come la sua segretaria, che infatti ne paga il 23%, il 23, capite? Il 23, non il 43 più contributo di solidarietà, questo mi limito alle imposte personali, come siamo qua nel caso di Warren Buffett, sarebbe così. Allora, questi qua che vi dicono che in America si mettono le manette, si dimenticano sempre di dirvi che in America le aliquote sono di 20 punti inferiori alle nostre, capite? Di 20 punti! Ed è quella la differenza di cui stiamo parlando. Ecco cosa significa parlare concretamente dei paesi che esistono nel resto del mondo, che crescono più di noi e che anche quando le cose vanno male, come vanno male in questi anni e in queste settimane in cui l'euro sta esplodendo, e dal 1 gennaio del 2011 a fine aprile di quest'anno sono 274 miliardi di euro di risparmi italiani che attraverso le banche estere in Italia se ne sono andate, proprio perché anche gli italiani fanno votare i loro capitali con i piedi, cioè questo è il punto, capiscono che questa è la condizione in cui siamo. Solo che in realtà a dirvi il contrario è esattamente gente che non ha idea dei numeri degli altri paesi, che non ha idea di come funzioni, che si fa ottenebrare la testa dalla pubblicità di uno Stato sgangherato, che più sgangherato è più vi dice che dovete mettervi in ginocchio e chiedergli scusa, perché non pagate abbastanza, perché voi non avete elettrica, mentre loro ce l'hanno, capito? Ecco, questa è la mia modesta opinione. Sentiamo una telefonata, Victor dalla provincia di Trapani, prego Victor. Sì, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Era semplicemente intanto l'apprezzamento per tutto quello che lei sta portando avanti ormai da anni. Purtroppo noi cittadini dovremmo imparare a diventare cittadini, significa partecipare, quindi quando è possibile riconquistare i nostri diritti. Al di là di questa considerazione, volevo semplicemente farle evidenziare un aspetto che non se ne parla praticamente mai. Quando si parla di tassazione, io sono un commercialista e alle aziende si imputa il concetto che molti evadono, perché la tassazione ha un livello medio, si dice, del 48-47%, eccetera. Sono delle falsità, dottore Giannino, perché se noi andiamo a calcolare tutte le, parlo con lei che è un tecnico e quindi come tutti quelli che stanno ascoltando probabilmente mi potranno capire, quando si parla di spese che le aziende devono sostenere per portare avanti la propria attività e queste spese sono fiscalmente indeducibili, ma io li sto spendendo per la mia azienda e poi mi ritrovo un utile civile in bilancio di 100 e un utile fiscale che a volte supera e si raddoppia per effetto di questa situazione della indeducibilità di alcuni costi, mi riferisco al costo delle auto aziendali, dei telefonini, tutti i costi che mi servono per portare avanti l'azienda. Ma io come faccio a dimostrare ai miei interlocutori, ai miei fornitori, che il mio bilancio poi alla fine è un bilancio scarso, e le banche che mi imputano un cattivo rating perché il mio bilancio è scarso come redditività? E la mia redditività è erosa da un fisco che ormai ha messo in ginocchio l'economia vera e che peraltro, caro dottor Giannino, La situazione è che l'imprenditore è sfiduciato, non ce la fa più e non ha più un interlocutore, perché l'apparato dei partiti è succube di questa situazione. Io la ringrazio. No, no, prego, io ringrazio lei. Aggiungo, e questo anche se questa è la radio di Confedusso, non mi fa velo il dirlo, che c'è un problema relativo proprio alla tenuta della piccola, piccolissima impresa, che abbiamo visto essere progressivamente sempre più in ginocchio quest'anno. L'abbiamo raccontato, la crisi che è in corso è una crisi più cattiva di quella 2008-2009, che all'epoca colpiva chi esportava per via dei cali del commercio mondiale. Questa è una crisi che aggredisce la continuità del tessuto molecolare della piccola e piccolissima impresa, artigiana, commerciante, partita IVA, autoimprenditorialità, che arriva con una tenuta reddituale e patrimoniale sempre più messa in discussione dal fatto che l'unico paese europeo che fa l'80% della propria rimessa in regola dei conti pubblici con più tasse su chi le paga, per il credit crunch delle banche, che sono molto più in crisi sistemica di quanto non fossero 4 anni fa, e per il fatto che tutti sono diventati cattivi pagatori, a cominciare dal cattivo esempio dato dallo Stato, che col cavolo che molla i 7 punti di PIL che deve in termini di debiti commerciali e debiti fiscali dovuti appunto alle imprese. E la differenza è che su questa piccola impresa gravano in media rispetto a pochissimi grandi gruppi e grandi banche, gravano in media anche 30 e talora 40 punti di tax rate reale in più sul reddito lordo, perché il sistema tributario, per come lo abbiamo congegnato e come si è evoluto negli anni, è diventato un sistema che a parole fa pagare molto meno. Il tax rate reale è l'ultima riga, quella che si paga davvero di imposta, al di là delle aliquote legali, no? Al di là delle aliquote legali di IRES e IRAP, quello che conta è l'ultima riga, una volta che tu fai la somma di tutte le poste che ti possono mandare in credito fiscale, e quello che poi paghi davvero sull'imponibile di imposta. E la differenza che c'è tra il tax rate reale di pochi grandi gruppi e poche grandi banche rispetto al 99% delle imprese italiane nasce col tentativo dirigistico dall'alto di voler per questo incentivare la crescita dimensionale e patrimoniale delle imprese, che è da sempre uno dei problemi della scarsa crescita del nostro paese. Abbiamo troppe imprese troppo piccole, no? Solo che questo dirigismo dall'alto del sistema fiscale si è volto in autocappottamento, perché come sempre il dirigista dall'alto crede di vedere la storia, ma la storia va per i fatti suoi e se ne fottere il dirigista illuminato, ed è diventato quindi a propria volta non un incentivo alla crescita, ma un terribile, insormontabile ostacolo alla crescita delle piccole imprese italiane, che pagano, ripeto, in media in termini totalmente antitetici a quanto scritto nell'articolo 53 della Costituzione, che prevede la progressività, articolo sacro per tutti, per tutta la sinistra, tranne il fatto non vedere che nelle imprese italiane è l'esatto opposto, c'è la totale regressività. Quanto più la tua impresa è piccola, quanto più non è finanziarizzata, quanto meno estesa la catena del suo controllo, quanto più non è a cavallo di confini internazionali, di ordinamenti quindi che consentono un arbitraggio fiscale, tanto più il tuo tax rate reale si eleva. Ma questo agli occhi della sinistra progressivista è un non problema. Non ho mai capito se per ignoranza di come funzioni davvero o perché ritengano che per le imprese, a differenza che le persone fisiche, è giusto che il piccolo debba pagare di più. Sapete perché? Perché il piccolo che vuole lavorare in proprio è un illuso, è un lavoratore dipendente sottratto al sindacato, capite? Ecco, questo, e tante volte sento questo eco nel fatto di quando vai a confrontarti sugli effetti reali di questi provvedimenti che sono ammazza piccola impresa, e c'è una specie di sorriso di compiacimento nel vedere che decine di migliaia di piccole imprese possono venir meno, perché si dice, ma in fondo, in definitiva, caro Giannino, e quelli ci abbassano la produttività del paese. Come l'alzeremmo la produttività se mettessimo qualche bel campo di concentramento per un po' di centinaia di migliaia di pubblici dirigenti? Allora, naturalmente, ma chi può pensare di ragionare in questo modo? Lo dico solo come replica a chi mi dice che se muore migliaia di piccole imprese italiane chiudono gli sportelli, è meglio per tutti perché alziamo la produttività. Ma dove vogliamo arrivare con un paese simile? Natale D'Amico, nella tua esperienza, però, ripeto, di consigliere della Corte dei Conti, ex parlamentare, ex sottosegretario, in realtà c'è una specificità di questa via italiana al ritorno dell'autoritarismo tributario, e il rimedio deve essere, secondo te, analogo a quello di altri grandi paesi, o la specificità è tale che il rimedio dovrà essere eccezionale, se eccezionale è stata la via attraverso cui si è tornati a un ordinamento autoritario? C'è una singolarità italiana che secondo me alla fine è una singolarità ideologica, cioè in Italia come dire, ancora nel ceto politico è dominante un'opinione ottocentesca secondo cui l'esercizio del prelievo fiscale è l'esercizio del potere sovrano dello Stato. L'idea più semplice, diciamo, che ha fatto proseliti nel mondo, di cui la gran parte del mondo occidentale è convinto, che in realtà il prelievo fiscale è il prezzo dei servizi pubblici. Quindi i cittadini accettano di sacrificare una parte del proprio reddito perché con quel reddito, anziché comprare automobili e abiti o case, preferiscono una parte di quel reddito destinarlo per esempio ad avere una polizia pubblica, per esempio ad avere una difesa esterna, per esempio ad avere una giustizia. In Italia non è così, la convinzione in generale è quella secondo la quale quello è l'esercizio del potere sovrano, appunto, dello Stato, che si appropria di quanto ritiene necessario. In tutto questo, quindi, due conclusioni. La prima è che nella storia non ci sono stati sudditi che si siano liberati se non e abbiano guadagnato lo stato di cittadini, se non attraverso la coscienza di essere sudditi. Io credo che la coscienza degli italiani di essere sudditi nel rapporto con lo Stato in generale, probabilmente, e sicuramente per gli aspetti fiscali, stia crescendo. E l'altra cosa, non si può parlare di evasione fiscale senza considerare il fatto che il primo incentivo alla pressione fiscale è il livello delle aliquote fiscali. Cioè, l'aumento della pressione fiscale non genera riduzione dell'evasione fiscale, ma genera ovviamente un aumento dell'evasione fiscale, chiunque ragiona un po' di economia lo sa. Seconda questione, non si può trascurare il fatto che diceva per esempio l'architetto che abbiamo sentito prima, l'architetto Pepe, che lo Stato che agisca così è il primo nemico della crescita economica. Perché oggi siamo in epoca in cui tutti riscoprono Keynes. Una delle cose intelligenti che ha detto Keynes, in realtà, che tutti dimenticano, è che il nemico dell'imprenditore è l'incertezza. Io quando faccio un investimento, certo, non so se davvero quanto mi costerà avere quel prodotto e soprattutto non so quanto sarà la domanda domani per quel prodotto che io finalmente riuscirò a fare. E lo Stato dovrebbe ridurre l'incertezza, dovrebbe servire per aiutare a ridurre l'incertezza. In realtà uno Stato che opera così sta moltiplicando all'infinito l'incertezza, perché sull'incertezza relativa a, nel caso dell'imprenditore e dell'architetto che sentivamo prima, ovviamente lui è incerto quanto mi costerà poi costruire le case, quanta gente sarà disposta a comprarle, immagino, se costruisce, certo, se costruirà appartamenti. Ne sto aggiungendo un altro, perché non so quanto mi costerà dal punto di vista fiscale l'operazione, quindi questo scoraggia fortemente l'innovazione. Quando noi parliamo del fatto che in Italia c'è poca crescita, che sostanzialmente vuol dire che non ci sono abbastanza imprese disposte ad investire quanto sarebbe necessario, per esempio, per avere... Parliamo anche esattamente di ciascuno di questi ostacoli. Stiamo parlando anche del fatto che lo Stato è un ostacolo alla crescita attraverso questo meccanismo semplicissimo, introduce incertezza nei rapporti economici. Allora, grazie Natale D'Amico. Strade! Eccoci qui tornati con i Doors. Io per qualche giorno, visto che adesso tutti scoprono che ovviamente siamo quello che sta saltando in aria in Europa e tutti trovate tutti i giornali, eccetera, per qualche giorno, come vedete, parlo d'altro, perché finalmente per mesi quello che picchiavo sul tamburo inizia ad entrare nella consapevolezza quando è un po' troppo tardi. Speriamo che adesso riescano ad evitare il guaio. Abbiamo un'altra testimonianza, un commercialista di Milano che si chiama Fabrizio Viel, che ci dà un'altra prova del perché leggere e comprare questo libro Sudditi di cui stiamo parlando. Lo potete trovare su amazon.it senza nessun problema. In quel caso risparmiate anche rispetto ai 20 euro che invece vi costa in libreria, 4,90 invece nel formato Kindle ebook. Allora, caro Viel, vediamo di riepilogare la vicenda su cui ci ha scritto. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Giannino. Cerco di riepilogarla in sintesi perché la vicenda nasce 18 anni fa, quando una mia cliente ha ceduto la sua azienda, la ditta individuale in cui operava, e l'ha ceduta con la riserva di proprietà in base all'articolo 1523 e seguente del codice civile. Questo è successo a gennaio del 94. Nel dicembre del 95 ho ottenuto il sequestro giudiziario dell'azienda per inadempienza del cessionario. Nel 96, a seguito di un arbitrato che c'è stato, ha risolto proprio ex tunc fin dall'origine quello che poteva essere il contratto di cessione di azienda che ha sottoscritto i tempi nel 94. A questo punto qui diciamo che è partito un iter di questo tipo, cioè che nel dicembre del 2000, per cui 17 giorni, 14 dicembre, 17 giorni prima dello scadere del quinto anno, gli è stato notificato un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che portava il valore dichiarato a suo tempo della cessione dell'azienda da 250 milioni di lire a 335 milioni di lire. E questo chiaramente è avvenuto dopo, ben qualche anno dopo, il sequestro dell'azienda. Successivamente, a seguito di questo avviso di accertamento, purtroppo l'unico peccato originale che c'è stato ai tempi è stato quello di non impugnare quell'avviso di accertamento e non andare a definire la questione sia o in termini diciamo di giustizia tributaria oppure con l'ufficio per determinare il valore reale dell'avviamento. A questo punto qui è partita una cartella da 172.000 euro in questo caso, a cui è seguito il, chiaramente il, l'ipoteca sulla casa, sul box. Io ho provato nel giugno del 2008 a rivedere sulla base dell'autotutela, che naturalmente è la capacità proprio riconosciuta all'amministratore finanziario di riesaminare criticamente la propria attività. Purtroppo qui il problema è questo, che la cessione del ramo d'azienda prevede una tassazione, chiamiamola per competenza, e non per cassa. Di conseguenza questa persona qui in tutta questa operazione ha incassato dei 250 milioni di lire, ha incassato effettivamente avendo dovuto restituire anche una parte di soldi per poter riprendere l'azienda, ha incassato effettivamente 28 milioni di lire, cioè 14 mila euro attuali circa. Articolo 53, lo diceva prima lei, della Costituzione, un contribuente contribuisce alla spesa pubblica in base alla propria capacità contributiva. Bene, io sono 4 anni che sto cercando in tutti i modi di evitare che questa persona, nonostante l'intimazione di pagamento che è arrivata il 27 marzo del 2012, giorno del mio compleanno, 321.000 euro, per cui siamo passati da una reddito dichiarato a suo tempo di 129.000 euro a una richiesta di Equitalia di 321.000 euro, per cui siamo a 2,5 volte il prezzo della cessione, che poi per la sintesi è che per una cessione che ha prodotto all'epoca 28 milioni, l'Agenzia delle Entrate chiede 320.000 euro all'epoca, per 14.000 euro ne chiede 320.000. Allora, questa è la sproporzione di uno Stato autoritario e ladro, ladro, ladro. Appuntamento a domani, lo ripeteremo finché basta. Grazie ovviamente anche a Fabrizio Viale, Natale D'Amico. A domani. 9 in punto, la versione di Oscar.